su Rigonia. Now, boys, don't get into any trouble while mommy and daddy are gone. And don't make a mess. Do you like parties? Yeah. We can invite all our friends and have soda and pie. Yeah! I hope no bad people show up. You ever think that the world just pitches you this idea that by adding more things into your life, that that is what life is all about? It's literally what it's for. I don't know, it just seems like you always forget the other half. Half of what? You ever got your heart broken? Or you ever lost your way? What does this have to do with it? And where are you now? Unfortunately, with you. Look, you don't heal from losing everything. Then? Look, I'd get it if you disagree, but losing everything, well, that is the healing. How is that possible? Because who you really are is actually in the absence of everything that you hold on to so tight. I'm lost. Yet here we are. agonia. Oggi è il 30 maggio 2024 e queste e sono le 20:05. Io avevo fatto, diciamo, una promessa, avevo lanciato una anticipazione sulla chat di Telegram di Radio Antidoto, dicendo che avrei mandato in onda un bel contenuto, perché io questa settimana ho lavorato su un bel contenuto, una cosa di cui vado particolarmente orgoglioso. Tuttavia ho fatto, diciamo, un errore da principiante. Sapevo che avrei dovuto riascoltare il contenuto, ma l'ho fatto solo mezz'ora fa, per scoprire che parte di questo contenuto è inutilizzabile. Ma in realtà la parte importante potrebbe essere salvabile. È anche un contenuto che si può rifare da capo. Un po' mi scoccia, devo dire la verità, perché era venuto molto bene la prima volta. Tuttavia, mi sono ritrovato nella situazione un po' strana di entrare in onda e parlare, laddove invece stasera vi avrei mandato 60 minuti di questo contenuto registrato e lo avrei ascoltato con voi molto volentieri. Ci avevo messo un po' ad abituarmi a quest'idea, perché in questo periodo io ho proprio tanta voglia di stare al microfono e parlare. E quindi l'idea di mandare qualcosa che in cui io non parlavo mi metteva a disagio. Ma il contenuto è veramente molto bello, era veramente molto bello, e la parte che si è salvata spero mantenga un po' della sua bellezza, e secondo me sì. Però il discorso è che ormai mi ero abituato all'idea che vi avrei fatto sentire questo contenuto, e questo contenuto non c'è. E quindi ho dovuto raccogliere, diciamo, dal bidone le idee che comunque avevo in mente di fare. E sono grato per questo incidente, perché effettivamente è un vecchio gioco che io ormai da parecchio tempo gioco con Radio Antidoto. Cioè, la mia mente è straordinariamente brava a creare strutture. La mia mente crea sempre spazi controllati. E quindi io, come vi dicevo, ho iniziato a immaginare le puntate successive, che cosa dire in queste puntate successive. E questa è una delle puntate successive, nel senso che voglio comunque trattare questo argomento, ma questo imprevisto mi ha scardinato. Quindi non ho più tutte le parole che avevo in testa da dire, e per questo sono grato, perché così io posso effettivamente anche oggi entrare in onda e entrare in relazione con questo microfono, con il sottofondo di Walk the Walk, il loop che ormai mando in onda da davvero tantissimo tempo. E posso ascoltare me stesso, posso ascoltare la mia pancia. Ho dormito 4 ore e mezza stanotte, la notte prima ne ho dormite 5. Sto avendo problemi di sonno da parecchio tempo, ma questa notte c'è stato un motivo più che valido per non dormire stavolta, perché sennò avrei dormito e come. E quindi sono un po' stordito, un po' confuso. E questa puntata nasce da questa confusione, nasce da questo incidente, e nasce da questa comunque voglia di essere qui e di fare quello che sto facendo, non importa se zoppicando, incespicando. Radio Antidoto non ha mai chiesto a nessuno dei suoi broadcaster la perfezione tecnica. Comunque, 20:09, 30 maggio 2024, giovedì, questa è Rigonia, e nelle mie intenzioni questa è la puntata sul coraggio. Thank you. The wins and losses are all crap. The highs and lows are all crap. It's illusory. What exists is seeing these guys and their kids, those relationships with your assistant coaches, everybody else you're with, because that's what you take with you as you move along. All those wins or losses, they fade away. They fade away. But those relationships stick with you forever, and that's where the self-esteem and the self-satisfaction comes. Rigonia. Rigonia, 20:13, giovedì 30 maggio, la puntata sul coraggio. Voilà, beccati questa rima penosa, caro ascoltatore di Radio Antidoto. Io sono qui e guardando il pad, il nostro strumento online del nostro palinsesto, è forte il colpo d'occhio, perché dal 9 maggio a oggi sono andato in onda 1, 2, 3, 4, 5 volte. E prima era andato in onda il 1 marzo, figurati. Sono andato a Londra 5 volte, perché ho avuto una visione. Ed è una visione importante. Ne ho già parlato in certi termini, però questa è un po' la puntata dove lo metto in chiaro, nello spirito bonelliano di se hai qualcosa da dire, dillo. Allora, innanzitutto io ho qualcosa da dire, e questa è la piattaforma che mi ha sempre permesso di farlo. E la seconda cosa è che quello che sto dicendo in questi episodi è stato quello che ho sempre avuto bisogno di dire da quando ho 14-15 anni. Per qualche motivo, anzi, per un motivo che io adesso comincio a capire molto bene, io ho bisogno di raccontare la mia vita ad alta voce. Ho bisogno di parlare delle cose che mi succedono nella vita, non tanto negli eventi, nel dettaglio, ma i pensieri che la mia vita mi sollecita. L'ho fatto suonando, l'ho fatto e lo faccio scrivendo, l'ho fatto e lo faccio andando in onda sui blog, in tanti esperimenti espressivi. E quello che capisco a 41 anni è che una delle cose che mi hanno reso un creativo così discontinuo è il fatto che ho sempre cercato un argomento di cui parlare, e non ho mai avuto le palle di parlare dell'unico argomento che per me è importante, che è me stesso. È una cosa strana, perché mi rendo conto, l'ho già detto altre volte in altri spazi, in altre puntate, in altri modi, che nel mondo succedono un sacco di cose, e ci sono tante persone che parlano di queste cose e ne parlano anche molto bene, anche in maniera molto competente. Non spetta a me parlare di queste cose. Non spetta a me parlare di musica, non spetta a me parlare di cinema, non spetta a me parlare di politica, di cultura, non spetta a me fare la sperimentazione radicale, la poesia vocale, la performance. Io non devo fare nulla di tutto questo. Quando ci provo, magari mi viene bene una volta, magari mi viene bene due, ma la terza mi sono stancato io per primo di farlo. Io sono un artista, sono una persona che vive per esprimersi, vive per raccontare. L'energia che mi sta dando entrare in onda in quest'ultimo mese non la vivevo da tantissimo tempo. So che le mie trasmissioni sono poco ascoltate e non mi importa nulla. Nell'essere qui in questo momento e dire queste cose, io mi realizzo. Questo è il presente, questo è il momento presente, tutto quello che vale la pena di fare nell'arco di una giornata. La radio non c'entra niente, eh? Potrei farlo schitarrando, potrei farlo recitando, potrei farlo scrivendolo, potrei fare in un sacco di modi, e lo faccio anche perché io scrivo tantissimo di questo periodo, scrivo diari, infinità di parole. E il punto della puntata sul coraggio è proprio questo: io non conosco nessuno come me, l'ho già detto in chiusura della scorsa episodio, io non conosco nessuno come me, non conosco nessuno che fa questa cosa come la faccio io, e non conosco nessuno che, facendo questa cosa come la faccio io, poi va nel mondo e parla e si comporta come parlo e mi comporto io. Ho avuto una visione del mio passato, l'ho guardato come se fossi un altro, come se non fosse il mio, e mi sono reso conto che ho fatto delle cose che le altre persone non fanno, e pensavo e dicevo delle cose a una certa età che gli altri coetanei non potevano neanche capire, e anche adesso è così. E non è una vita banale, non è una vita facile, o almeno è una vita facile se io la abbraccio, questa vita, però la verità è che ci vuole coraggio, nel senso, raccontarsi così, parlare di emozioni, parlare di debolezze, parlare di vulnerabilità, parlare di insicurezze, parlare di tutte quelle cose che terrorizzano e incatenano tutti gli uomini, tutti quanti. E io lo faccio bene, lo faccio male, non lo so, non importa. Non conosco altre persone che lo fanno nel modo in cui lo faccio io. Magari c'è qualche americano che lo fa, figurati, c'è sempre un americano che lo fa. E appunto, questa puntata è dedicata al coraggio proprio per questa ragione. Il coraggio di essere se stessi e il coraggio di guardarsi a nudo, da soli. Potrei stare ancora lì a pensare al prossimo romanzo che non finirò, o a che cosa parlerà la prossima canzone, o al prossimo giro di accordi che dovrebbe essere diverso dagli altri, ma io non ho bisogno di un romanzo, non ho bisogno di un argomento di una canzone, e non ho bisogno di trovare giri d'accordi strani, io ho già tutto. Io devo soltanto continuare insistentemente e senza mai preoccuparmi se c'è qualcuno all'ascolto oppure no, di raccontare me stesso e di uscire nel mondo nel modo in cui io so fare, cioè con le emozioni vere, potenti, sempre in mano, e dire le cose con tutto quel cuore che gran parte delle persone non riesce a metterci. Quello che non sai sul perdono. Il perdono è un dono, un regalo che facciamo a noi stessi. Il perdono non significa che giustifichiamo la persona che ci ha fatto del male, che ci va bene quello che ci ha fatto, o che dimentichiamo il dolore che ci ha provocato. Il perdono non significa che liberiamo la persona da quello che ha fatto. Ciò che ha fatto resta, e non potremo né noi, né lei o lui, cancellarlo o cancellare le conseguenze che ha avuto sulla nostra vita e sulla sua. Il perdono è qualcosa di intimo, di nostro. Possiamo anche non dirglielo che lo abbiamo perdonato. Il perdono significa liberare noi stessi. È come se tenessimo in mano un sasso pesante e lo lasciassimo andare. Il perdono non è obbligatorio. Se non riesci o non vuoi perdonare, non sentirti sbagliata o sbagliato. Delle cose per noi possono essere imperdonabili. Allo stesso tempo però ti auguro con tutto il cuore che tu riesca a perdonare, con i tuoi tempi, quella persona, quelle persone che ora non vuoi o non puoi perdonare. Ti auguro libertà e pace. Ti auguro leggerezza. Fammi sapere se queste parole ti risuonano e seguimi per non perdere i prossimi contenuti. Just hold me in, just like I was Eddie Harris. Francamente io ritengo che gli uomini che hanno un grande successo nella vita, ma un successo che regge, hanno tutti delle caratteristiche molto simili. Primo, non ascoltano nessuno, fanno finta di ascoltare ma non ascoltano nessuno. Due, quando prendono una decisione vanno diretti per la loro strada. Tre, sanno custodire i segreti. Un grande uomo, una grande donna è tale solo se sa custodire i segreti e smette di parlare di sé. Vuoi star bene? Smettila di parlare di te. Quattro, smette di parlare del passato, perché il passato è morto, è morto. Persone che si lasciano e dopo 10 anni sono ancora lì a ricordarsi. Ma lasciato, i rancori sono sostanze chimiche nel cervello che lo annebbiano, lo intossicano e gli portano via le capacità che hanno. Rigonia. E adesso che faccio? Che il mio nuovo guru Raffaele Morelli ha detto che non devo parlare di me stesso, non devo pensare al passato. Dico questo, che era quello a cui poi stavo pensando durante il pezzo. Io durante quest'anno c'è stato un momento in cui, diciamo a partire dalla scorsa estate, avevo davvero bisogno di trovare strumenti e concetti e parole e pratiche per in qualche maniera imparare a convivere con una serie di emozioni e di situazioni che mi creavano una dimensione di disagio e di dispiacere che in realtà l'avevo già provata prima nella vita, ma che mi coglieva ancora una volta così, distratto forse, non pronto, come se mi fossi dimenticato tutto quello che avevo fatto le altre volte, come se quello che avevo fatto le altre volte non funzionasse più. È un po' così perché è cambiato il contesto, sono cambiate le condizioni ambientali e alcune cose che sapevo fare non le posso fare più. Fatto sta che col passare del tempo ho realizzato che questa mia ricerca, questo mio informarmi di fatto era uno studio. E mi sono fermato e mi sono detto, ma io sto studiando. Cioè io ho studiato, mi sono preparato, ho studiato le situazioni, ho studiato le persone, ho studiato l'interiorità, ho studiato le emozioni, ho studiato l'importanza del tenersi in movimento, ho studiato il modo per dire a Lucia che sono in onda e che non deve entrare, ho studiato un sacco di cose. E il punto è proprio questo, che sono tornato in onda e ho avuto questa visione proprio perché a un certo punto ho capito che questo è tutto un insieme, tutto un lavoro che io sto facendo da sempre e nel quale adesso posso dirmi parecchio bravo. Non si tratta di essere psicologi, non si tratta di essere psicanalisti, si tratta di essere amici, si tratta di essere compagni, si tratta di essere compagni di viaggio, si tratta di essere confidenti, si tratta di essere protettori, si tratta di essere guaritori. E io, come Chirone, di cui ho parlato in una mia newsletter di qualche settimana fa, sono il guaritore ferito. Cioè la vita mi ha ferito e io per curare le mie ferite ho imparato come si guariscono le ferite. E anche se faccio fatica a guarire le mie ferite, sicuramente so tante cose sulle ferite, per cui io posso venire qua e parlarne. E di nuovo, ci va coraggio a studiare le ferite, ci va coraggio a studiare l'emozione negativa, ci va coraggio a guardare in faccia, più che altro a confrontarsi con delle parole, parole dette ad alta voce come queste di Morelli, che mi mettono di fronte per esempio a modelli di persone che non voglio, a cui non voglio aderire. Io non ci credo a questo successo della persona che sa mantenere i segreti o che non parla di sé. Io non ci credo a questo successo qua, mi dispiace, stavolta non sono d'accordo con Morelli. Conosco persone così e sono persone che potranno anche, come dire, sbatterti in faccia la loro serenità, ma che in qualche maniera creano terreno arido attorno a sé. E questo, per esempio, questo spazio è un giardino. E ci va coraggio. Ci va coraggio perché certe volte senti delle cose che ti... che ti inibiscono, ti fanno dire no, ma io questa cosa non l'accetto. E magari un giorno accetterò anche questa cosa di Morelli. Ti faranno dire no, io non posso continuare ad ascoltare o sentire perché sto proiettando l'immagine di me su quello che vedo e che sento e mi fa male. Ci sono tanti momenti in cui, e io li ho vissuti in cui scappi dalle cose che sono importanti da ascoltare e da vedere. Però con la continuità e anche con la consapevolezza e con la determinazione, con l'accanimento, con il desiderio, piano piano accumuli conoscenza, accumuli esperienza, accumuli energia e ti rendi conto di botto che in qualche maniera hai camminato un percorso assolutamente lineare, assolutamente necessario, assolutamente funzionale a guardarti alle spalle e a guardare il cammino e a dire accidenti, io sono arrivato fino a qua, come diavolo ho fatto ad arrivare fino a qua? Ma è fantastico, io non pensavo di poter arrivare fino a qua. E in qualche maniera quando io sono fuori in mezzo alle persone rimango comunque una via di mezzo tra un introverso e un estroverso. Per alcune cose sono molto introverso, per altre cose sono molto estroverso. Quando io sono in mezzo alle persone, questa consapevolezza, questa cosa di aver fatto questo viaggio così lungo. Una volta io pensavo semplicemente di essere una persona che aveva visto davvero tante cose, perché aveva cambiato, era stato in tanti modi, in tanti mondi diversi, aveva avuto tanti amici diversi, aveva imparato cose diverse su argomenti di volta in volta sempre differenti, avevo imparato a trasformarmi, avevo imparato ad adattarmi, avevo imparato a non credere più alle idee conformiste, eccetera, eccetera, eccetera. Quello io di me lo pensavo, di me lo pensavo veramente. Ma quello che adesso vedo, guardandomi alle spalle, è che io ho avuto coraggio. Perché gran parte di noi nascono e crescono in un posto, in uno spazio, e dentro quello spazio vogliono starci nascosti. Dentro quello spazio vogliono sentirsi protetti sempre. Non vogliono vedere il resto, non vogliono sapere cosa c'è fuori. E anche chi vive una vita come la mia, presto o tardi, avrà bisogno di sentirsi protetto. Presto o tardi farà qualcosa che faccia interrompere il viaggio. E io no. Io mi nutro di questo viaggio. Io sono curioso di vedere quello che c'è fuori, ma soprattutto vivo per buttare fuori quello che state ascoltando in questo momento. E questa cosa qui io... ripeto, non la vedo fare a tante persone, e perché secondo me per mettersi a nudo, per parlare col cuore, per entrare in relazione con le persone veramente uno a uno, guardandosi negli occhi, per consegnarsi messaggi che parlano della propria vita, ma della propria vita vera, il proprio rapporto con i genitori, il proprio rapporto con i figli, il proprio rapporto col lavoro, con la fatica, con i propri lati più oscuri, tutte queste cose qui, tu le intraprendi solo ed esclusivamente se hai il coraggio di farlo, solo se hai il coraggio. Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with both. Rock. You've only got one job right now. Just one. Drop all of your stories. Everything that you keep talking about, drop it. Because it's keeping you stuck in the mind. Right? You're in a constant loop. You have to drop the stories and you have to say, I accept my fate. See, we do this thing where we try to micromanage how we're gonna let go. You know, I've done this too. I'm about to let go, but I'm gonna take this one thing with me. This idea that I won't be sick after this, or this idea that I won't lose an eye or I won't lose an arm as I let go. That's still control. You have to accept that it's gonna go down the way it needs to go down, and you are not in control. You are not in control. And the more you try to control it, the more you're gonna delay what's really destined for you, truly, because you're always gonna dodge this bullet, dodge that bullet. You're not accepting your fate. You have to accept whatever comes. You're just along for the ride, and do your best to handle things with grace, to respond to things with grace. That's all you can do, all right? I love you. Questo tizio qua, questo da cui ho preso quest'audio, lui è un po' melodrammatico nelle cose, infatti non lo seguo più tanto. Però sto pezzo mi era piaciuto tanto. Mi era piaciuto tanto la parte sul destino. Che è anche un po' un titolo alternativo a questo episodio. Però lui dice una cosa assolutamente verissima. E cioè che non c'è controllo, cioè tu devi fare la cosa che devi fare. È un pensiero strano nel momento in cui, e questo è un po' il punto di quelli che ti dicono di lasciare andare. Nessuna delle persone che io ho sentito, da Alan Watts in giù, cioè chiunque, probabilmente perché sbaglio io, ma nessuna delle persone che ti dicono lascia andare ti suggeriscono lascia andare perché come posso dire, chiudi gli occhi, lasciati andare e scommetti sul fatto che tutto quello che farai ti farà cadere nel posto giusto. Questo è il punto. Io ultimamente, come dire, ho la mente molto presa da questa cosa che devo venire in onda, perché venire in onda è come scrivere, ma è meglio di scrivere, perché scrivere, soprattutto i miei diari, è una cosa che non può leggere nessuno, mentre questa cosa qui io so che qualcuno ci potrebbe inciampare sopra, e quindi so che devo farla bene, so che devo dire le cose giuste nel modo giusto, le cose che voglio dire. E questa cosa qui che sto facendo adesso e altre che ho in mente, che voglio fare, che purtroppo la vita mi sta mettendo un sacco di ostacoli, piccoli, grandi, fastidiosi, ma cioè vedo il percorso, no? Vedo la strada. Queste cose sono il lasciarsi andare. Cioè il lasciarsi andare non è smettere di provare quello che provi. Lasciarsi andare non è diventare incoscienti. Lasciarsi andare non è diventare ottimisti a tutti i costi. Non c'entra niente. Lasciarsi andare vuol dire: ho capito quello che devo fare, ho capito cosa è importante per me, ho capito cosa mi dà beneficio, e quindi lo faccio. E se lo faccio non potrà che venirne del bene, perché è la cosa giusta per me e viene da un posto di me che è un posto genuino. Perché io, per carità, come ho detto, sto lavorando per fare dei contenuti diversi, anche dei contenuti che che parlano di cose diverse da me, ma tanto alla fine sempre qui torneremo, perché questo è il motivo per cui io sono un artista, da sempre, sin da bambino, perché io voglio raccontarmi, perché fuori non ci riesco, e però vivo e ho vissuto una vita strana, provo cose che le altre persone non provano, mi esibisco in azioni che non vedo fare ad altri. Vorrei avere un amico come me, vorrei avere una persona vicino a me che sia me, e io adesso capisco perché alcuni dei miei amici sono così tanto legati a me, adesso capisco perché certi amici hanno parole di tale stima. Ed è stranissimo, una sensazione stranissima. E però quando questo è il coraggio, cioè ti guardi dentro, capisci quello che c'hai e lo fai, e farlo ti fa stare bene, e farlo ti fa stare bene, e farlo ti fa pensare che andrà tutto bene, farlo ti fa venire voglia di farlo ancora, di continuare a farlo, di non smettere mai. E mentre lo fai succede un'altra cosa meravigliosa, che è un po' il contenuto di tanti dei miei episodi, tante le parole che sto spendendo mentre ci avviciniamo a tre quarti di puntata, quindi bisogna cominciare a chiudere, che è l'amor proprio. In inglese si chiama self love ed è un concetto che, se tu appunto assorbi da quel tipo di contenuti, quelli che ogni tanto vi sparo fuori, no? Quelli che vi sparo fuori, presi dai social, dei motivatori, degli psicologi, tutta sta roba di gentaglia qui, fricchettoni, tu lo percepisci in una certa maniera, e in italiano si chiama amor proprio. In qualche maniera questa roba dell'amor proprio te lo depotenzia, però è proprio quella roba lì, cioè tu prendi la tua strada, fai la tua cosa, questa cosa mentre la fai pensi era la cosa che dovevo fare, non pensi al fatto che appunto io sono, dovevo proprio venire in onda stasera, forse non mi ascolta nessuno, forse mi ascolterà Bonelli, forse mi ascolterà Lorenzo, non lo so, però intanto l'ho fatto, penso era la cosa che dovevo fare, mi fa stare bene e mi fa amare me stesso, mi fa pensare io sono la cosa più bella che ho incontrato, e quando sono felice così ho voglia di darlo anche agli altri, e sono grato alle persone che mi aiutano tutti i giorni ad avvicinarmi a questi pensieri, ad abbracciarli e a scoprire appunto il coraggio di aprirsi, che è la mia missione, che è la ragione per cui sono qui. Il coraggio di essere fragili, il coraggio di parlarti a bassa voce, il coraggio di sputtanarsi anche. E forse è il caso di ascoltare qualcosa. Radio Antidoto, 20:45, 30 maggio 2024, Rigonia. If you struggle with overthinking, you feel like your internal dialogue is just one big loop of fear and worry, then I want you to understand two things. Number one, that your brain operates with a negativity bias. It is wired to detect danger because it's trying to keep you alive. So when these anxious thoughts come up, take a step back and realize that your brain is actually trying to protect you, which is kind of cool. Don't push the thoughts away. Don't beat yourself down for it. Recognize and appreciate the intention. And secondly, shift your focus. You don't have to lead with that negativity bias, but your attention needs another place to go. You need another option. Make a habit of noticing what's going well in your life. What makes you feel good? What do you enjoy? What do you appreciate about life? You can strengthen the neural pathways in your brain towards more positive thinking, not by berating yourself away from the negative thoughts, but by intentionally shifting your focus over and over and over again. Rigonia. E invece c'è una persona che mi ascolta ed è Federico. E lo saluto e l'abbraccio, mi ha mandato un vocale, sarei molto tentato di mandarlo in onda. E lei per esempio mi piace molto, non mi ricordo come si chiama, ma tutte le cose che dice sono sempre interessanti, sono sempre forti. Ed è molto bello, nel senso, questa è una cosa che vorrei inserire negli episodi. Ci sto provando, non so se passa il messaggio, cioè anche qua, overthinking. se tu cerchi l'argomento dell'overthinking, te ne parleranno sempre malissimo. Cioè, tu devi smetterla di essere overthinking. E invece lei ti dice, no, fermati, non è che devi smettere di essere overthinking. Overthinking è un meccanismo di sopravvivenza. È tuo amico l'overthinking. Piuttosto, capisci quando è il caso di attivare l'overthinking e quando no. Basta. Non è che devi smettere di pensare. E questo è un ribaltamento grandissimo di prospettiva. Esattamente come le emozioni negative. Non è che non le devi provare. Non è che non puoi provare le emozioni negative. Devi capire a cosa servono. Perché non è che ti hanno montato il chip delle emozioni negative per star male, basta. Cioè, le emozioni negative servono a qualcosa. Il giorno che capisci cosa servono, l'hai svoltata. È la stessa cosa, no? Cosa dicevo? Del lasciarsi andare, no? E il concetto del lasciarsi andare è che dovremmo essere tutti fiduciosissimi nei confronti del mondo, chiudere gli occhi e cadere. No, non è quello. Lasciarsi andare vuol dire che tu, in qualche maniera, ti fidi, impari a vedere cosa stai facendo, fai quello che ti fa bene fare, e poi ti fidi. E poi ti lasci andare, poi lo capisci cosa vuol dire lasciarsi andare. Lasciarsi andare vuol dire, cavolo, quello che sto facendo è giusto e potrà solo che andarmi bene. E quindi, non lo so che non sono in controllo di niente, però posso fare questo, senza raccontarmi storie, senza girarci attorno, faccio questo e non potrà che andarmi bene. 48 minuti, metto l'ultimo brano. Un classicone, è stata l'occasione comunque per fare la mia bella puntata monografica solo sui Beastie Boys. E ringrazio Fede che mi ha ascoltato. Tra l'altro, gli dedico anche questo pensiero. Questa puntata è un po' l'estensione della chiacchierata che ci siamo fatti stamattina. Cioè, ti ho parlato un po' della puntata e non sono riuscito a chiudere il discorso perché poi è arrivato un collega matto che si è messo a parlare di Kalashnikov. E dopo questo brano direi che manderò anche la sigla di chiusura. 30 maggio 2024, 20:49, dovrebbe essere l'episodio 27 di Rigonia, l'episodio sul coraggio. E per chi c'era, grazie. Per chi ascolterà il podcast, grazie. Ma grazie in generale, dai. Buona serata. Beastie Boys. Yeah, when it comes to envy, all is green. Jealous of the rhyme and the rhyme. trovarci su Rigonia.